e addirittura si possono trovare anche nelle stazioni ferroviarie. Ci sono delle signore che arrivano dalla campagna che vendono questi tipi di prodotto. Ora io non scommetto sull'igiene, però devo dire che sono abbastanza buoni, insomma. E poi la grande caratteristica della cucina russa sono le zuppe. Ecco, qui c'è una zuppa veramente che a me piace molto, che è il borscht. Borscht cos'è? È una zuppa fatta con barbabietole e carne. Ce ne sono di rustiche, ma ce ne sono anche sempre di più sofisticate, perché ovviamente ci sono anche dei cuochi giovani russi che ormai stanno elaborando, diciamo, questo tipo di cucina rustica, come è successo in Italia, come succede in tutto il mondo, e quindi le portano avanti. E il borscht io credo che sia uno dei piatti assolutamente da non dimenticare quando si va in giro per la Russia, perché è un piatto che si trova un po' ovunque. Oppure ci sono anche delle polpettine che sono ricche di ricotta e sono accompagnate. Ecco, questa è un'altra caratterizzazione della cucina russa: quasi ovunque mettono la panna acida. Ecco, a qualcuno piace, a qualche altro non piace. A chi piace la panna acida, sicuramente è un complemento di quasi tutti i piatti, di quasi tutte le zuppe, che dà un certo tipo di sapore, un certo tipo di caratterizzazione. Queste zuppe sono con carne, patate, cipolle, di solito sono tantissimi ingredienti, molte volte il tutto è gradevole e, diciamo, viene fuori un qualcosa di armonico, altre volte un po' meno. Valeria, sempre consigli gustosissimi quelli del nostro gastronauta. Noi però, anche in relazione alla Russia, abbiamo da segnalarvi alcune curiosità. Ritrova l'Ippica in te all'Etnomir, il più grande parco etnografico in Russia. Grande oltre 10.000 metri quadri, l'Etnomir offre un viaggio virtuale in 252 etnovillaggi che rappresentano i diversi popoli russi e del mondo, per un'immersione totale tra le diverse culture che costituiscono il nostro pianeta. Il parco è aperto tutto l'anno, ma il momento migliore per visitarlo è l'estate, quando ci sono eventi particolari come il Mondo del Gusto, in cui è possibile assaggiare cibo da tutto il mondo, o il Festival degli Aquiloni. Il parco si trova vicino a Kaluga, a 110 km da Mosca. Non è difficile immaginare l'esistenza di un museo della vodka a Mosca. Sia che vi piaccia o meno, la vodka ha una storia affascinante. Russia e Polonia si contendono l'origine di questo alcolico. La vodka russa è sempre stata molto apprezzata sin dal XIX secolo. Il museo ne ripercorre la storia, ma la parte migliore della visita, e come poteva essere diversamente, è la parte finale, in cui si possono assaggiare diversi tipi di vodka nel ristorante del museo. Avete mai bevuto un caffè in un bar i cui muri sono ricoperti di piccole sculture di plastilina? Lo potete fare al Didu Caffè, un bar sempre pieno perché molto amato dai locali. Il bar attira anche molti visitatori stranieri, che sono incuriositi dall'arredamento funky e bizzarro e dai muri pieni di sculture di plastilina create dai visitatori. Anche voi potrete provare. Se invece la storia è il vostro pallino, non potete saltare il Bunker 42, un vecchio bunker antiatomico costruito sotto le strade della città, che nel 2006 è stato venduto a una compagnia privata e trasformato in un museo sulla guerra fredda. Le visite sono guidate e di diversa durata, fino a 4 o 5 ore. Il bunker non è facile da trovare. Scendete alla fermata della metro Taganskaya. Poi sarà la guida a darvi informazioni dettagliate sul percorso da seguire. Valeria, siamo arrivati al termine anche di questo appuntamento con Globetrotter 24. Prima di salutarci, vi ricordo l'indirizzo mail globetrotter24@radio24.it. Segnalateci le vostre destinazioni preferite, le vostre curiosità sui viaggi che avete fatto o che state per intraprendere. Per questa puntata è davvero tutto, alla prossima.